le tue frasi, le parole si danno la mano in un curioso giro tondo attorno alla mia testa. E sembra ieri che chiudevo gli occhi e tu riempivi d'improvviso tutta la mia stanza. È proprio come Alice dalla neve, sei arrivata qui, e come Alice con la neve, adesso te ne vai. Dentro le mie mani le tue scuse si frantumano e poi scivolano piano qui tra le mie dita. E sembra ieri che chiudevo gli occhi e tu riempivi d'improvviso tutta la mia stanza. Oh, è proprio come Alice dalla neve, sei arrivata qui, e come Alice con la neve, adesso te ne vai. E non ho avuto neanche il tempo di pulire questa casa dai ricordi appesi e dai pensieri sparsi che hai lasciato qui. Sei tornata.